tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua in diretta sabato sera in compagnia delle ragazze che vengono da... Cividate Camuno! Bravissima, preparatissima, ha detto anche Camuno perché sennò si arrabbiavano. Eh? Esatto. Ti ricordi anche il tuo nome? Sabrina. E cosa fai? Sono qua per un addio nubilato. Di chi? Del mio. Ah, perfetto, perfetto, è la protagonista. È la protagonista. No, esatto. Sembrava che eri qua per un addio nubilato. Dici, vabbè, mi hanno invitato. No, invece... del mio. Sei la sposa, sei la protagonista. Esatto, sì. Ah, bravissima. Poi voglio sentire il nome anche dell'amica. Ragazza, certo. Microfono, come vi chiamate? Barbara. Arianna. Sabrina. Chiara. Perfetto, brava, brava. Avete imparato a parlare vicine e tutto. Allora, dimmi un po', sono... Chi è la testimone? C'è la testimone? No. Ah, sente, ah, non c'è stasera? No, esatto, è la sorella, ma non c'è. Assente, in assente? Momento, in questo esatto, momento? Solo in questo momento. Ok, e loro sono le amiche del cuore? Esatto, sì. Da una vita? Da una vita, sì. Quelle proprio da quando eri piccolina? Sì, sì, addirittura dall'asilo. Che correvate nei prati, felici, di Cividate esatto. Camuno, le caprette vi dicevano ciao. Perfetto, tutte quelle cose. Mi fate la corsa da... Che alla radio si vede bene la corsa, esatto. No? Tra... C'è quell'altro che... Perché corri così, tipo... Sempre cioè... più bassa. Ah, è per quello. Esatto. È perché cerca di attaccarsi all'aria per alzarsi. Che bello, che bello. È la prima volta che venite al convento, ragazze? Sì. Sì? Vi è piaciuto? Bello, bello. Sì, bello. Non molto lo sapevate. Interessante. Molto interessante. Sì. Molto interessante perché ricordiamo che ci sono degli esemplari di maschi particolarmente strani, giusto? Esatto. Giusto, c'è qualche maschio che vi ha colpito in particolar modo? Ma un gruppo di ragazzi con una maglietta molto simpatici che avevano la cravatta disegnata, ma erano carini. Perché? Questo? Cosa dite? Questo? No, quello no. Questo va bene, ecco. No, perché a volte si appiccicano anche al vetro. Ah, ecco. Sì, sì, anche quest'altro. Cosa? Questo numero uno. Va bene, va bene. Purtroppo da casa non possono vedere perché sembra di essere dentro un acquario qua, giusto? È vero, è vero. Ce l'avete? E ogni tanto arriva qualche pesce strano che si... Che nuota, che fa? Qualche squaletto. Esatto, esatto, qualche squaletto. Ascolta, come ha fatto a chiederti di sposarti? A casa, proprio molto romantico, con una cenetta sorpresa. No, è stato bravo. Ah, soft, una cosa. Sì. Voi c'eravate, ragazze? No, logicamente. Era bello, no? Che magari c'era anche il tifo. C'era anche il tifo, così una cosa. E ma sei inginocchiato, ha tirato fuori il gigillino. Ma ci siamo seduti sul letto e ha tirato fuori. Aspetta, che suona male. Siamo in radio, siamo in radio. Allora, allora siamo in radio. Quindi chi ha attaccato, sintonizzato adesso parlando. Già c'è la saletta tutta rossa. Stiamo parlando, ecco, di una dichiarazione. Quindi ha preso la scatolina, da bravo, ha estratto l'anello. Ha estratto l'anello, ha fatto la dichiarazione ufficiale. Ah, perfetto, ecco, voi ragazze non eravate maliziose, ecco. Cioè, quella più piccolina che era preoccupatissima, eh? Ha detto chissà cosa dice adesso, no, magari la sorella dello sposo, no, non c'è da niente. Ah, non è la cognata, no, perché la vedevo particolarmente terrorizzata quando ha iniziato a raccontare che eravate sul letto, esatto, che ha tirato fuori il coso, e quindi già stava andando, è uscita invece una cosa seria, no, giusta. Una cosa seria, giusta. Tu hai detto sì subito, proprio... Sì. La lacrimuccia c'era? Allora, no. Sì, la lacrimuccia c'era perché mi ha fatto aspettare 10 anni, quindi... 10 anni, ma sapete che tutte le spose che ho intervistato stasera, minimo 10 anni prima di avere... Cioè, i tempi si stanno dilatando. Bene. No, diciamo che secondo me voi volete sposare, ma sono i maschi che fanno un po' orecchie da mercante, eh? O no? No, dai. No, dici di no, te. Anche tu... Al massimo avrei anticipato un anno, ma non di più. Ah, non di più? No. Ah, strano, no? Di solito, cioè, da quello che vedo, che ho sentito, i maschi, insomma... Se non sono costretti quasi, non voi siete già sposate? C'è qualcuna? Io. L'hai costretto? No. No, ah, questa. Dopo due anni, ah, proprio. Record, cioè, nel senso, bravo, questo è uno di quelli veri, allora. Si salva. Nessuna single qua, ragazze? Io. Ah, hai trovato qualche esemplare? No, per fortuna no. Ah, per fortuna no, ok. Lei si è salvata. Ti sei salvata. Dagli esemplari qua. Guardate che roba. Questo è un pezzo forte, eh? No? Con le piume rosa. L'avete incontrato anche lui? Sì. Che bello, che bello. Viaggio di nozze, dove vai? In Madagascar. Che bello. Andate con voi tutte ragazze, giustamente, no? Fare il tifo. Prima notte di nozze, presenti. Così, così funziona? Certo. Ti muovi solo con la tua equipe qua delle, esatto. Del, delle amiche. Ti mettiamo in valigia e via. E te le porti. Certo. Bello, bello, no? Che amica, bellissimo così. Tu sei sta... Magari. Ah, magari se andresti. Abbandoni anche qua il tuo marito, anche se... Un attimo così. Cosa non si fa una per le amiche? Per un'amica. Ma voi in vacanza assieme siete mai andate? L'avete mai fatta? Ce l'avete? Sì. Ma tutto il gruppo questo io no? E lei. Ah. E lei. Ah, ma assieme voi così no? Vi no, manca vero, questo manca. Questa mattata. Dobbiamo rimediare. Madagascar. Madagascar. Madagascar. Se no potresti organizzare il post viaggio di nozze con le amiche. Cioè, si fa il post e vi fate un weekend al mare di quelli esagerati, una roba del genere, no? Maxi divertimento e sì. Poi ritorniamo. E dopo torni, ci basta. Io adesso metto la testa a posto, mi sono sposata. Facciamo le brave. Sì, no, via. Fate le brave, però vi divertite tutti assieme, no? Vi date un'idea? Sì. Saranno contenti bravo. Gli mariti a casa. Che idea del cavolo che ha dato, no? E dopo mi sgridano in Cividate Camun, com'è che parlano a Cividate Camuno? Tipo... È meglio non parlare è meglio. In dialetto. No, non riuscite a dirmi qualcosa in dialetto? No, perché così almeno... Se... Più che altro non sarebbe comprensibile. Non è comprensibile? No, ci vuole la traduzione. Davvero? Sì. Te la senti provare? Aspetta, devo pensare una frase. Non so, allora facciamo così, fai i ringraziamenti alle tue amiche però in Cividate Camunese, si dice, eh? Esiste? Okay. Ok, tipo, voglio ringraziare... Fai un discorso però in dialetto. Volevo ringraziare le mie simpatiche... voci. Così, è bello che... Eccoli. Eccoli. Sono, ah, sono questi, sono questi. Ma quello assomiglia a Mirko De Biaiva, quello. Sì. Non sembra Mirko De Biaiva. Con le cravatte disegnate. Ah, ecco, simpatici, sono no, penso. Sono simpatici, è vero, brave, brave, brave. Comunque quando sei entrata nella parte sembravi un'attrice di teatro. Fai teatro? Davvero? Sì. No. Non è entrata nella parte. Sembrava. Magari. Visto che ma è entrata... un talento naturale che scopre. Che storia. Ma lui per regalare, è vero che alle ragazze del vostro paese non si regalano mazzi di rose? Lui, allora, non mi regala mai le rose perché sa che non mi piacciono. Però è bravissimo perché tutti gli anni a San Valentino mi regala o tulipani o i fiori che mi... orchidee. Che tenero, pensavo. Io volevo fare la battuta tipo che si regala... No, l'ho trovato bravo, non si regalano... bene. Che storia, invece volevo dire non si regalano fiori ma la rosa camuna, il formaggio... Era quella la storia, no. Invece lei è andata... Non si è mai presentato con una rosa camuna? No, però no. Adesso no. Cioè, ti piacerebbe? Ti commuoverebbe? No, credo, no. Meglio Natale sotto l'albero col cesto. Con la rosa camuna? Con la rosa camuna. Ah, va bene, ok. Allora abbiamo dato anche lui una dritta per Natale, esatto. Per il regalo di Natale e voi una rosa camuna. Perfetto. Ragazze, sono 8 minuti che stiamo parlando. Vi siete resi conto? No. Assolutamente no, vero? Sì. Quindi dobbiamo salutare perché il nostro tempo a disposizione sta per finire. Vai con i nomi ancora. Barbara, Arianna, Sabrina, Chiara e Sabrina. Che sei là? La futura sposa. Ecco, giusto. Ha iniziato che sono invitato a una di un celibato, nubilato, così invece... Sono stata generica. Ecco. Un applauso a Sabrina, ragazze.